stai su Radio Wombat e questa è Radio Wombat. Pata e buonasera ascoltatori, siete su 8 Hz delle frequenze di Radio Wombat 1359 AM o anche digitali come probabilmente state già ricevendo. E siamo partiti qualche minuto in ritardo, ma la volta prima siamo partiti ancora più in ritardo, perché anche a questo giro abbiamo un ospite. Un ospite era già venuto l'anno scorso, così come Bad Girl, e si chiama Federico Fragasso. A questo giro lo dico bene. Che è gestore dell'etichetta UR, che è venuto in trasmissione perché sta organizzando una cosa molto bella che ci sarà il 15 dicembre al Next Emerson a Firenze. Ciao Federico. Ciao a tutti. E ciao anche a te, naturalmente. Grazie. Allora, lui Però il organizza. ritardo non è colpa mia. No, no, è colpa mia, è sempre colpa mia. Allora, organizza questo festival che si chiama Distropicana. Allora, intanto perché Distropicana? Ma perché l'unione delle parole, cioè dell'aggettivo distopica. Appunto, si pensa alle distopie, le utopie negative, quindi queste visioni del futuro drammatiche con l'inquinamento a mille, pianeti che collassano, e chi più ne ha più ne metta, con invece Tropicana, che era un brano degli anni Ottanta del gruppo italiano, come si chiama? Bevila perché è Tropicana. Yeah. Io sono parente della tipa, tra l'altro, no? È una Davvero? storia vera, sì. Oppure anche Club Tropicana degli Wham, ora mi viene in mente. Insomma, Infatti, tutto ciò comunque, che è un parole po'. che, sì, parole che insomma portano alla mente l'estate, le Ma perché palme e i climi equatoriali. Era un po' l'unione di queste due cose, in perché. realtà ti interessi molto delle musiche che hanno a che fare un poco con la Con la Tropicana, insomma. Tropicana, sì, beh. La volta scorsa venisti a parlare delle produzioni di UR e ovviamente del tuo gruppo che sono i Caveiras, ma anche di Lampreda. E proprio abbiamo fatto una puntata sul Brasile, interamente dedicata al Brasile, quindi con tanti ritmi, come si può dire, ritmi tribali o bossa nova, insomma. Cose comunque ritmate. E questo festival ci stupisce perché proprio è quasi una dicotomia, diciamo, no, forse un'unione tra appunto la distopia, la fantascienza con i suoni più tribali, diciamo, più, non dico allegri, come si può dire anziché allegri, più. Ma sì, ma ritmi anche allegri ci sta, cioè nel senso il concept di questa serata può essere tranquillamente un concept in generale per tutto quello che Ursuani rappresenta e anche un concept che unisca un po' diciamo, le caratteristiche di Ursuani con le caratteristiche di Biodiversità Records, che è l'altra etichetta. Che organizza appunto con me la serata. Tra l'altro salutiamo Pietro che non è riuscito purtroppo a venire questa sera. L'altra etichetta che si chiama Biodiversità Records, che è una Esattamente. scoperta, che l'ho scoperta grazie appunto a Federico, e poi ne parleremo. Intanto però vi voglio ricordare che il primo pezzo che avete sentito, che non abbiamo detto nulla, sono i Bud Spencer Drunk Explosion, che per chi non è di Firenze magari non sa chi sono, oppure fa confusione con quei gruppi che hanno un nome I simile. Bud Spencer Blues Explosion oppure i John Spencer Blues Explosion. Allora, e si parlava prima, e quindi Bud Spencer, Drunk Explosion sono esistiti prima degli Non altri, prima dei John Spencer Blues ovviamente Explosion, ma prima dei Bud Spencer Blues Explosion. no. E Viterbini, che cazzo sei tu? tra l'altro, ai tempi del fantastico MySpace, quando c'era ancora un po' di realtà, Che bello, che che bello. belli i tempi del MySpace, gli scrisse proprio qualcuno dei Bud Spencer, Drunk Explosion, e gli disse: oh, ma che fate? Allora, ci siamo già noi che ci si chiama così, cambia di pochissimo la cosa. E insomma, questo gruppo che poi è rimasto fermo per una decina d'anni Si e sono sciolti. sono Si sono sciolti. sciolti perché sono dei musicisti incredibili, ma dei personaggi umanamente incontrollabili. Quindi, sul finire del 2008, inizio del 2009, cioè quando stavano finendo di registrare il disco, si si sono esplosi, si sono sfaldati e niente, la cosa è finita lì. Però, poi incredibilmente. incredibilmente appari tu che dici: ma perché non si pubblica il vostro album che 10 anni fa avete registrato? E tra l'altro suona modernissimo. Ora non è che 10 anni fa era l'antichità, però insomma sembra anche un suono molto attuale. Sono rimasto stupito. E gli ha detto: perché non si fa l'album? E a quanto pare, oltre a fare l'album, cosa hanno fatto? Esattamente. Allora, io scopro le carte e dico che della scena fiorentina di una decina di anni fa, che forse è stato il primo e anche l'unico momento in cui mi sono sentito parte di una scena, come dire, coerente, no? Perché ancora adesso ci sono un sacco di progetti interessanti, però per la roba che suono io e che mi interessa promuovere anche con l'etichetta. Magari un pochino meno, nel senso non esistono forse qualche progetto sparso, ma non esiste una scena coerente. Beh, 10 anni fa c'era e di questa scena che possiamo chiamare, non lo so, punk funk revival all'epoca, perché comunque c'era un po' di ispirazione a quei gruppi di fine anni 70, Sì, primi anni sì. 80. I Bud Spencer erano i miei preferiti, cioè nel senso io li ho sempre ammirati tantissimo e gli ho anche rubato un sacco di idee negli anni successivi, nel senso e sono sempre stati i miei preferiti e sono amici e io sapevo dell'esistenza di questo disco registrato, mixato e rimasto lì a prendere polvere perché poi loro si erano sciolti e quindi li ho approcciati e gli ho detto: senti, pubblichiamolo. Magari non andrà da nessuna parte, però pubblichiamolo perché è un peccato che il mondo non sappia che c'è stata questa cosa, perché è un disco che, come dicevi tu, è comunque attuale, cioè nel senso, se non avessimo dichiarato esplicitamente che è un disco registrato 10 anni fa, non è che Non se ne accorgeva necessariamente, nessuno. esatto. E da questo è scattata un'ondata di entusiasmo perché tutto questo succedeva, penso, forse addirittura a febbraio dell'anno scorso, i primi contatti relativi alla questione. È scattato un'ondata di entusiasmo e loro si sono rimessi a suonare insieme, che è una cosa che, cioè, a me mi rende l'uomo più felice del mondo. E infatti poi il 15 suoneranno dal vivo, ecco, per la prima volta da almeno 10 anni. E sono il gruppo, il gruppone della serata, cioè non Headliner. gli headliner, Gli ecco, per headliner. usare questa parola un po' così. Allora, il primo pezzo che abbiamo sentito è anche il primo pezzo del disco, che non so come si chiami. Il disco o il pezzo? Il disco. Il disco si chiama Bud Spencer Drunk Cosa? Explosion. ST. ST, esatto. E E questa sera io ti ho portato gli unici due pezzi che possiamo far sentire perché gli altri sono ancora top secret. ok. Ti lancio in anteprima questa cosa che da lunedì li facciamo sentire tutto il disco in streaming su Calports, ma appunto questo pezzo qui l'avevo già fatto sentire in radio quando ero stato a Roma con In altri Gianluca luoghi. Polverari e poi abbiamo pubblicato il super singolone che sentiremo dopo, Allora, scusami. questo pezzo si chiamava Tallero e tra l'altro si ne parlava prima, è un incrocio tra la prima parte, poteva essere tra i Techno Animal, Debug, che è roba che penso che a Michele piaccia, anzi sicuramente. E la seconda parte mi ricordava gli Adden Twix, che sicuramente conoscono. E sono Cazzo, entrambi io non ne molto belli. conosco uno di questi gruppi, però mi fido di te. No, vabbè, cioè, era una cosa mia anche perché così ci sta, ci sta. l'ascoltatore dice: ah, allora però andiamo ad ascoltarli. E Ta adesso Tallero, tra l'altro, colgo l'occasione per dire che ci sono almeno tre pezzi nel disco che portano il nome di personaggi non meglio identificati che sono amici loro. Questa cosa mi ha sempre fatto molto ridere. Tallero, Tallero. Magari c'è gente che lo conosce il Tallero in ascolto, chi lo o sa? i talle. Il Tallero. Quindi questo è il pezzo del singolone che andiamo a ascoltare, sempre appunto dei Bud Spencer Drunk Explosion, che Questo chi ha di Firenze non può non ricordarselo, secondo me. si chiama Schumann, Haydn e Hopfer. insomma, nomi diciamo altolocati nel panorama musicale. Prima scuola viennese, più Albert Hofer, che è un altro amico loro. Ok, l'andiamo a ascoltare. Fa male. Questo è A. Sì. A. Questo è A. Thank you. questo è il suono dei Bud Spencer Drunk Explosion, che potete ascoltare dal vivo sabato 15 dicembre al Next Emerson a Firenze per questo festival organizzato da UR e da Biodiversità Records, che si chiama appunto Distropicana. E non mi ricordo più cosa volevo dire di questi pazzi, ma va bene. Volevi citare dei gruppi che io non conosco, che però no, ecco, stavo pensando che sono anche riprendono secondo me anche da un certo scenario elettropunk degli anni 80. Si fece tempo fa una puntata secondo me molto carina con gruppi misconosciuti che in realtà hanno fatto la storia di quello che poi spesso ascoltiamo oggi e non ce ne rendiamo conto. Tipo di? Cioè, anch'io mi ricordo malissimo di questi gruppi. Aspetta, te li dico dopo, intanto presentiamo. Comunque erano i, per esempio, tipo i Factrix o... dura, ce n'erano tantissimi, tra l'altro tanti anche americani, anche il primissimo Zev ha avuto a che fare con l'elettropunk, il vediamo un po', ora cioè, anche perché sono gruppi che si hanno fatto due dischi, è tanto, per cui è roba proprio poco, veramente poco conosciuta, che però in qualche modo è riuscita un po' a creare una sorta di futuro per altre persone, diciamo così. Poi tanti spesso, cioè l'elettropunk a volte significava avere solo la batteria elettronica e il resto tutto suonato, però con un ritmo freddo, una roba quasi cyber, ma insomma ci sarebbe tanto da parlare, e al limite ascoltate la puntata sull'elettropunk, me la riascolto anch'io. E quindi continuando un po' su quello che ci sarà in questa serata del 15 dicembre, c'è anche sempre una produzione appunto di UR, che è Lampreda, che ne abbiamo parlato anche in passato perché ha suonato all'Emerson stesso per un concerto di Drums of Fear di Chris Corzano. Con grande Chris Corzano, quindi erano progetti di due batterie, e ora ritorna all'Emerson appunto in questo festival e con non so con quale set, non so cosa farà, però diciamo anche lui appunto progetto di sola batteria tra il casarone e l'industrial, anche sperimentale, diciamo si divide un po' la questione live con questi tipi di ritmi, secondo me. Sì, assolutamente. Simone, che è il nome del personaggio che poi è dietro al progetto Lampreda, che è il batterista di un sacco di formazioni, insomma, in ambito fiorentino. E sì, non so come definirlo, afro-noise, industrial afro-noise, tribal afro-noise, Troglo Noise. Se lui di Troglo Noise. Troglo Noise. Ora suona domani, peraltro, allo Spazio Materia a Prato, insieme a un altro bravissimo batterista che è Simone Tecla, che ha suonato peraltro in occasione dell'ultimo evento che abbiamo organizzato con il suo progetto ZA. E si definisce Troglo Noise. Lui fondamentalmente suona una batteria acustica che microfona e fa passare, diciamo, le pelli e i piatti che microfono attraverso un mixer e poi esce su un amplificatore da basso, se non sbaglio, rotto peraltro, esatto. Quindi diciamo che appunto i suoni che ne escono sono abbastanza particolari. Lui di sua natura è abbastanza portato appunto a ritmi afro, diciamo, come per dargli una collocazione geografica in tutti i progetti in cui suona. Comunque ci mette un po' del suo, che è un elemento africano abbastanza preponderante, esatto. E quindi sì, afro noise o troglo noise o come lo vuoi chiamare, ci sta tutto. Comunque è molto interessante. Lui è stato la prima produzione che abbiamo fatto, esatto, con UR, è stato anche un po' il trait d'union per questa serata con Biodiversità Records, perché dopo aver pubblicato questo EP d'esordio con noi ha fatto un brano su una compilation promossa da Biodiversità Records con vari artisti che si chiama Ecotono, che è l'ultima cosa che loro hanno pubblicato di questo settembre. E quindi insomma era un po' l'artista che ci univa Infatti. e tra l'altro il pezzo che ha pubblicato per Biodiversità Records lascia un po' intravedere la direzione che Sta prenderà in prendendo. futuro. Ora sentiamo prima un pezzo vecchio, tra Infatti, virgolette. intanto prendiamo il pezzo da Lampreda numero 0, che è proprio la vostra prima, la tua prima release come etichetta. Si chiama Hangover with Porcellana o Porcellana. E non mi ricordo, ma non è tra i pezzi, diciamo, un po' più sperimentali, sia questo anche quello successivo, se non sbaglio, se non mi Ah, questo è ricordo abbastanza spinto, a dire la male. verità. Però Allora, Hangover. sono tutti, cioè una componente sperimentale ce l'hanno tutti, perché comunque le sonorità sono Alcuni mi particolari. Un po' ricordo che sono un po' più. più Sì, ambientali, sì, gamelan, sì. dilatati, sì. Esatto. No, non questo, questo spinge. Allora, la spinta di Lampreda con Hangover with Porcelana. O Porcellina. Porcellina. Vai. appena in tempo, e questo era Lampreda col suo brano, appunto tra un po' il noise e il tribalismo afro. E ascoltiamo anche un altro brano di Lampreda, perché praticamente, come diceva Federico, è un po' il trade union per un po' capire la serata, che è stata costruita un po' a due teste più che a quattro mani. E appunto quella di Federico è quella del l'owner, mi viene sempre a dirlo in inglese, Pietro, di Pietro, appunto dell'etichetta Biodiversità Records di Firenze, che ho scoperto proprio grazie a Federico. E tra l'altro sono andato a vedere il Bandcamp e ha tante belle cose, molte delle quali sono ambientali. Si diceva prima con Federico che, però, per dare un po' una linea comune della serata, sono stati scelti progetti i quali insomma sono, ci stanno, diciamo, con la parte più ritmica che appunto porta UR. Sì, esattamente. Lui ha chiamato la sua etichetta Biodiversità Records proprio perché un po' il concept che lega tutto, nel suo caso, è proprio l'elemento della natura. Infatti poi anche le copertine. Sì, se noterai anche i titoli dei dischi, le copertine riportano sempre a elementi di questo tipo, che è ammirevole, secondo me, appunto, nell'ambito dell'ambiente del noise, che poi è buffo, no? Perché ormai cioè, il noise e l'ambient alla fine. Mi ricordo, lessi una volta un articolo sugli Einstürzende Neubauten che diceva che alla fine la loro evoluzione era tutto sommato coerente, no? Perché l'ambient, se diventa molto forte, diventa noise, certo. Quindi. Sì, comunque lui è a filo un po' tra questi due elementi, che solitamente hanno sempre un immaginario, quantomeno il noise ha un immaginario sempre molto scuro, no? molto minaccioso, eccetera, eccetera. Invece lui ha tutte queste produzioni che si ispirano agli elementi della natura, che insomma mi piace. Allora, intanto intanto di passare il pezzo di Lampreda e poi via ne parleremo. Questo è uscito su Ecotono, che è l'ultima, esatto, compilation di Biodiversità Records, uscita a settembre. Esatto, e quindi Lampreda diventa un po' il capri espiatorio di questo festival. È quello a cui daremo la colpa se tutto va male. Entrambi, esatto. Sia io che Pietro, lo picchieremo, esatto, forte. Gli metteremo una maglietta, è tutta colpa mia. Allora, Yattakan, che è uscito appunto per questa compilation di Biodiversità, che si chiama Ecotono, appunto del 2018, uscita veramente pochissimo tempo fa, Lampreda. We'll be right back. E questo era Lampreda, il brano che è uscito appunto per Biodiversità Records nel disco Aiuto, l'ho perso, Ecotono del 2018. E parlando, cioè, guardando un po' il catalogo di Ecotono, troviamo Nautilus Frank, che appunto è un altro personaggio che suonerà nella serata del 15 dicembre Distropicana al Next Emerson a Firenze. E Nautilus Frank è DJ e produttore, però in qualche modo si è avvicinato alle sonorità dell'etichetta in questione della biodiversità. E poi ce ne parli anche tu un po', perché lo conosco poco. Guarda, Nautilus Frank è l'artista di Biodiversità Records che quando sono entrato in contatto con Pietro è quello che per primo ha attirato la mia attenzione, proprio perché l'elemento appunto ritmico è sicuramente molto più presente in lui. E niente, appunto, ha questo album che è molto interessante. Il cui tema sono le palme, che ritornano anche nella nostra serata. Esatto, Anche nella copertina, se non sbaglio. e quindi niente, mi piace davvero molto, quindi Sì, potremmo sentire intanto. anch'io quando l'ho sentito, mi hai fatto sentire questo brano più che altro. Ho detto, è roba veramente, veramente particolare. L'ho trovata molto bella. Cioè. La definizione era Tropical Sci-Fi, che è un po' poi alla Appunto. fine il tema della serata. Quindi È se tutto stato va male è anche colpa sua. sì, anche lui è stato abbastanza responsabile nella definizione del concept di Stropicana. Ok, allora lo facciamo sentire Nautilus Frank Tropico One. C'avevi lo smalto nero e il trucco. Avevo lo smalto nero e il trucco. Vabbè, cioè... Potrei raccontarti degli aneddoti incredibili con questo assist, però diciamo non lo farò. Che la concentrazione è andata via perché è arrivato a salutarci in radio Bad Girl pure stasera, ma non presenta nulla, però appunto... Cioè, cos'è la cosa? La questione smalto nero, Dio. Si sente da Io lontano. L'ho portato lo smalto nero. Io lo porto ora, 44 tuttora. E quindi, insomma, con l'arrivo di Bad Girl si parla anche di queste cose, parlando un po' del sud. Boh, sembra una cosa strana, le loro esperienze di live nelle terre del sud. E un altro brano che vogliamo mettere è questo remix che ha fatto Nautilus Frank, forse anche per ribadire che insomma è un produttore DJ a tutto tondo. Se vi ascoltate le robe sue anche su Bandcamp è molto più hip hop rispetto a quello che stiamo ascoltando stasera, diciamo. E tra l'altro un hip hop fatto molto molto bene, di gran classe. Questo brano insieme è un remix di Panacev Mishima, che non so bene chi sia. Se devo essere sincero, neanche io. Però forse è una persona che ha un hype preciso, non lo so. Comunque il pezzo è molto interessante e forse anche un po' quello che risulterà dal suo live set. Quindi intanto lo mettiamo, tanto sono brani non troppo lunghi, a volte basati proprio su questi loop di stampo hip hop, con i loop ci fai un po' tutto, ma la base deve reggere bene, così come in questo brano. Quindi Panacev Mishima remixato da Nautilus Frank, che non vedo sinceramente l'ora di vederlo, e il brano si chiama Windings. Chi lo sa? Non mi frega sempre sulle pronunce. E intanto ricordiamo un po' cos'è Radio Wombat, che è una radio libera cittadina, che trasmette anche su onde AM al 1359 di quella stessa frequenza, e un po', se volete ascoltarla, non solo proprio in onde radio, lo potete trovare anche su sul sito wombat.blogs.org, la potete trovare, potete trovare delle cose di quello che viene realizzato anche su un Facebook e su un Twitter, ma insomma sono i mezzi che meno in realtà interessano a questa radio. Potete trovare tutte il palinsesto di tutte le trasmissioni, che sono tante e variegate, ce n'è per tutti i gusti, proprio all'interno del sito. Potete scrivere alla mail di Radio Wombat, che è radiowombat. No, non mi ricordo più la mail, vabbè, lasciamo stare. Non guardare me perché non la so. Posta wombat@insiberia.net, ecco. Ve l'ho detto, vi ho fregato. E tra l'altro, di ogni singola puntata succedono due repliche alla settimana, quindi voi potete ascoltare stasera la nostra trasmissione, che è 8 Hz, ma anche riascoltarla, in questo caso, il sabato e la domenica, degli orari che troverete nel palinsesto, così come appunto tutte le altre trasmissioni. Non solo, ma se vi interessa riascoltare o approfondire le trasmissioni e ristudiarvele, tra l'altro ci sono in tantissime, con la nostra c'è anche tutta la scaletta dei brani che sono stati messi quasi sempre, nel sito wombat.noblogs.org ci sono tutti i podcast trasmessi da quando è nata fino a domani, e quindi insomma è un gran bel archivio, secondo me. Ci fermiamo un attimo anche per dire che è successa una cosa brutta in questi giorni a Firenze, ovvero che la polveriera, lo spazio autogestito di Santa Pollonia, è sotto sgombero. Praticamente venerdì scorso il CDA dell'azienda regionale del diritto allo studio ha approvato senza alcun preavviso lo sgombero degli spazi comuni della polveriera. È una polveriera che è quasi 5 anni che va avanti, in realtà ha fatto tutto quello per cui l'azienda regionale per il diritto allo studio se ne vuole riappropriare, ovvero per ridargli una qualifica e una dignità. E invece la vera dignità è stata creata da questi ragazzi che, sbattendosi per quasi 5 anni, hanno portato festival, concerti, dibattiti, festival della letteratura, di tutto di più, che potete trovare appunto nel loro sito, che si chiama lapolveriera.noblogs.org. quindi ora più che mai andate a spulciarvelo, andate a vedere tutte le adesioni che sono state fatte a favore del non sgombero di questo bellissimo spazio, importante perché anche in centro è un punto di contatto soprattutto con gli studenti universitari. È una cosa che in tanti posti purtroppo manca, e che a Firenze appunto in questi anni è nata e va tenuta stretta. Sì, guarda, io ti dico, le mie attività di organizzazione di eventi sono cominciate proprio lì, proprio alla polveriera, sì. E secondo me è uno spazio importantissimo, come dire, oltre per le attività che fanno, oltre perché insomma sono tutti ragazzi bravissimi che ormai ce li ho nel cuore, ma anche per meramente per la collocazione geografica, perché è in pieno centro e non esistono spazi di questo tipo nel centro di Firenze. È uno spazio che fa cultura, per quanto strano possa sembrare alle persone che pensano che negli spazi autogestiti o occupati ci siano solo gentaccia, in realtà è l'opposto. No, assolutamente, ma poi essendo che appunto è in centro, è un polo importantissimo proprio perché all'opportunità di portare in un determinato tipo di situazioni persone che altrimenti non ci finirebbero. Cioè, a me, io mi ricordo bene che in occasione di serate nostre alla Polveriera, io ho visto, cioè, non lo so, studenti stranieri del Polimoda che pogavano sul ritmo del punk rock, cioè, nel senso, secondo me sono cose incredibili queste, perché altrimenti tutte queste persone che sono qui a Firenze per pochi mesi o magari addirittura giorni, non vivono la città, cioè vivono solamente gli aspetti più... È un discorso lunghissimo. È un discorso lunghissimo, però per l'appunto la Polveriera è uno spazio che assolve a questa funzione, per cui... Certo. Ed è l'unico che in centro può fare questo, quindi... Io non so che cosa dire, però sarebbe una perdita grossa. Grossa, grossa perdita, sì. E speriamo che con la forza di tante persone qualcosa mantenga... Però io ho visto tantissime manifestazioni di solidarietà in questi giorni, quindi speriamo sì, che sì, sì, qualcosa smuovano, insomma. Ok, e dopo forse la cosa più importante, come ho detto, stasera, al di là del bellissimo festival che ci sarà il 15, andiamo avanti, continuando a presentare gli altri gruppi o le altre singole persone che parteciperanno a questo, tu lo chiami mini festival, ma secondo me quando ci sono sei gruppi è già un festival vero e proprio. Tra l'altro mi ha detto che è su due sale, per cui insomma anche tecnicamente è abbastanza preparato, diciamo, niente al caso. E curiamo un po' adesso la parte un po' di Pietro dell'altra etichetta di biodiversità, che ha proposto all'interno del festival anche 52 Hertz Whale, che poi mi sono andato a informare che sarebbe, cioè 32 Hertz Whale qui è scritto come cuori, però le balene emettono un suono, il loro suono è che ha 52 Hertz, così, giusto 8 Hertz, no? Vabbè, era così per fare la gonfiata. E comunque questo è 32 Hertz Whale, Jacopo Mittino di Bologna, che è un compositore e frequenta il corso di studi in sound design presso il Conservatorio di Musica Martini, e quindi ha eseguito anche un sacco di performance e sonorizzazioni. E poi se vuoi aggiungere qualcos'altro. Assolutamente. Sì, Jacopo studia al conservatorio, cioè studia musica elettronica al conservatorio di Bologna, che è un po' negli ultimi anni l'abbiamo visto che è un po' un bacino in cui nascono tutta una serie di fenomeni. Caterina Barbieri viene da lì, se non sbaglio. Tanto per dirne una, ma per esempio, che ne so, Francesco Zed, a.k.a. Tonto, anche studia lì. Che fai Discomfort e Despatch, che sono tanto, questi sì, sì, quarti d'ora di noise. Sì, ora cito lui perché io ho partecipato alla coproduzione del suo ultimo disco. Ma insomma, una cosa interessante del conservatorio, cioè della sezione di musica elettronica del Conservatorio di Bologna, è che è molto in connessione, diciamo, c'è una permeabilità con il tessuto underground della città di Bologna, cosa che forse dalle nostre parti accade meno, sì. Esatto. Sì. E infatti 52 Hearts Whale è un progetto che si muove un po' a metà fra il mondo dell'accademia e appunto l'underground, tant'è che in questo momento Jacopo è in tour con Francesco Zedde, Tonto, stanno facendo un tour congiunto e tra l'altro, guarda, ti do un aneddoto interessante. A questa serata io inizialmente volevo far suonare anche Francesco, perché sì, appunto avendo partecipato alla coproduzione del disco, E lui mi disse: guarda, io non ci sono il 15 perché sono a Milano, però potrebbe venire Jacopo, il ragazzo che sta facendo il tour con me. Infatti, lui ha suonato anche sull'ultimo disco di Tonto. Quindi un po' vi siete trovati con No, entrambe io le lì per lì gli dissi: parti. Babbo, non lo so perché ora bisogna vedere quanti progetti riesco a infilarci. Poi la cosa è cresciuta perché da essere una serata solo dell'Aura è diventata una serata congiunta insieme a Biodiversità Records. Quindi 52 Hearts Whale è rientrato alla finestra. E, insomma, è interessante questa cosa. Però sì, secondo me l'elemento interessante in tutto questo è che il conservatorio di Bologna sforna una serie di personaggi che sono in connessione con anche l'underground, e non a caso in questo periodo c'è tutto un fermento noise in senso molto lato che unisce abbastanza i due mondi, tant'è che appunto al Discomfort Dispatch che tu citavi all'ultima edizione hanno suonato una serie di personaggi come Francesco Giomi, che insegna al Conservatorio di Bologna, Damiano Meacci, che insegna al Conservatorio di Bologna, e che io saluto perché insomma sono stati i miei colleghi a tempo reale. Quindi mi sembra molto bella questa cosa. Non ci dovrebbe, cioè, mi sembra bello che non ci siano delle barriere fra generi alti e generi bassi, per così dire. Questa è una cosa buona, secondo me. Esatto, ma intanto mettiamo il primo pezzo in scaletta che si chiama Rainless 52 Hertz Whale. Mi piacerebbe sapere perché ha chiamato così il suo progetto solista. Allora, Jacopo Mittini, il suo suono per questo disco che è uscito per Non Piangere Dischi e Di Notte Records, credo. Aspetta, aspetta, qui mi sa che ti stai confondendo con Black Lagoon. Ah, sì, è vero. È vero, se ne parlava prima, è vero, che è uscito autoprodotto probabilmente, non abbiamo trovato cose, solo sul Bandcamp che ho visto che c'è un bel po' di roba, quindi probabilmente autoprodotto, scusate le imperfezioni, ma è Ma molto molte volte difficile. sono anche, diciamo, registrazione di performance che lui ha fatto, nel senso che lo vedo anche in questi giorni, sta facendo un progetto insieme a Demetrio Spusigno di Koi Records, e sono sempre progetti un po' a metà fra appunto l'audio, il video, la performance, eccetera, eccetera. Quindi noi ora stiamo sentendo delle tracce audio, ma può essere che Che ci siano sia legate tutto. ai Sì. visual, sì, certo. Allora, intanto lo mettiamo, il brano si chiama Rainless. Thank you. questo è il suono di 52 Hertz Whale. E se vi interessa, sappiate che appunto anche lui suonerà, non so in che forma, non so in che modo. È particolare, perché per l'appunto Pietro mi diceva che gli ha chiesto di preparare qualcosa di particolare per la serata, essendo che appunto c'è questo elemento ritmico che ritorna in tutte le altre produzioni. Anche lui forse farà qualcosa del genere, o forse farà una performance in tandem con qualcun altro, chi lo sa. Attenzione, cioè, vedremo. Attenzione, mandi l'hype. Esatto. Crei l'hype, anzi. E un altro artista, diciamo, poi artista è sempre una parola un po' brutta, diciamo. come diceva il mio amico, tipo artista, ormai l'unica concezione che è giusta è quando in un baretto il tipo che non c'ha voglia di far niente, o che è comunque diverso e fondamentalmente forse un artista, gli tirano una pacca sulla spalla e gli dicono artista. Come dico, ah, questo è quello strano, non c'ha voglia di lavorare. Ecco, questo un po' che più delle volte è anche una verità. Infatti è una cosa, cioè non è una cosa detta a caso. E insomma, c'è quest'altro musicista veronese, sperimentatore, diciamo, che si chiama Black Lagoon, che è Andrea Signorini, conosciuto anche come Afraid Hell Demonio 2. Che forse c'era anche Hell Demonio, no, Hell Demonio 2, perché la pagina di Facebook. No, l'avevo letto così nell'evento, molto curato e scritto bene, tra cui c'è questa immagine bella che lui, mentre suona, si legge il libro di Fantascienza e l'Urania, sì. Grandissima così, collezione di libri di fantascienza. Che belli i librini dell'Urania. Poi scritti con le colonnine doppie, come erano una volta. Infatti... Io ho l'uomo che cadde sulla terra, quello da cui è stato tratto il film di David Bowie, ce l'ho in volume grande. Ce ne ho tanti anche di Shackley. Ah, sì. Grande. Intanto ascoltiamo un pezzo tratto da questo disco, che, come avevo fatto la gaff prima, è uscito il 28 settembre per Non Piangere Dischi e Di Notte Records, e è un self-titled, ovvero si chiama Black Lagoon. Il pezzo si chiama Legba, qui non si può sbagliare come pronuncia, e poi magari ne parliamo ancora. questo è un pezzo più tribale di Black Lagoon, che appunto fa parte un po' del suono, diciamo, della serata. Anche questo è un po' un esempio validissimo per descrivere quello che accadrà il 15 dicembre al Next Emerson, per questa serata intitolata Distropicana, di questo connubio di etichette tra UR e Biodiversità Records, entrambe di Firenze. Io direi di metterne un altro, che dici, sempre suo, dovrebbe essere un pochino più ambientale, un po' più Tangerine Dream. In effetti si chiama Tangerine il brano. Sì, magari, guarda, due parole al volo. Ora, Andrea Signorini è quello che gestisce Non Piangere Dischi. Ah, ok. Tanto non per essere chiari. Appunto, lui ha suonato negli Afraid e negli Hell Demonio, non so in che ruolo. Io gli Afraid me li ricordo perché ci suona o ci suonava Cava, che ora suona anche negli Arabia Saudagi, che sono un gruppo a me molto caro, perché insomma li conosco, ci abbiamo suonato insieme. E, tra l'altro, molto interessanti gli Afraid, insomma, una sorta di synth punk, non saprei come definirlo, però roba che a me piace. E sì, niente, lui ha tutto questo immaginario, diciamo, di fantascienza, ma fantascienza vetero, appunto, una fantascienza da volumi della Urania, quindi affascinante, insomma. Poi ora con tutto questo, come cazzo si chiama la serie di Netflix, ce ne sono tante di quella anni 80, cazzo, non me la ricordo come si chiama. Altered Carbon, no, quella che ha avuto un sacco di successo, con la scritta tipo Stephen King. Stranger Things. Sì, okay, capito, cioè, nel senso, sì. A me mi ha fatto un pochino anche pensare a tutto questo immaginario qui. Allora, quindi, che evidentemente oggi ritorna, perché siamo persone che appartengono a quell'epoca lì. E non smetteremo mai di appartenere a quell'epoca. Mai. Tanto lo mettiamo, Tangerine Black Lagoon. Thank you. Black Lagoon Tangerine, Radio Wombat, 8 Hz, puntata su interamente dedicata al festival Distropicana che si terrà il 15 dicembre al Next Emerson a Firenze. Ci avviamo un po' verso la fine e come ultima cosa ritorniamo un po' sui ritmi un po' più, anzi parecchi più serrati, con l'ultima proposta di Ur Suoni per questo concerto. Loro si chiama Metro Crowd de Roma e sono abbastanza coatti, abbastanza spinti, sì. Facciamoli sentire, poi dopo ne parliamo. Ok, vai. Metro Crowd, intanto il brano si chiama No News. Eccoci con la, il pezzo bomba dei Metro Crowd. Perché li hai invitati? Ma perché si parlava prima del, della scena post-punk, punk-funk di 10 anni fa a Firenze, no? Sì. Io vengo un po' da quel background lì. E, attualmente in Italia... la scena a cui mi sento più affine probabilmente è quella di Roma Est, come è universalmente conosciuta. Sono tutti persone, poi come sempre accade in questi casi, sono diciamo, è qualcosa che ruota intorno a quelle 5-6 persone. Quelle poche persone. Sono vari progetti che appunto ruotano intorno sempre alle solite persone. Però mi piacciono molto tutti, devo essere sincero, proprio perché hanno radici comuni rispetto appunto a quelle che sono le mie e a quelli che sono stati e sono i miei progetti. Io mi ero sentito con Antonio Tricoli, batterista dei Metro Crowd, nonché Mai, nonché sì, che abbiamo messo anche Trouble settimana scorsa come remix a Petrolio, tra l'altro un gran bel pezzo. Trouble vs. Glue era un'altra delle proposte che volevo portare qui e, per fare un live, prima o poi questo accadeva, forse addirittura l'anno scorso, e niente, si è presentata l'occasione e l'abbiamo fatto. Loro ora hanno un album nuovo che a breve uscirà per Maple Death. E quindi insomma invece il pezzo che abbiamo sentito invece era del disco del 2016, sì, per My Own Private Records, se non sbaglio, esattamente, appunto, che poi è l'etichetta di Manu, che è un altro dei personaggi di questo ambiente qui, quello che sono i Trans Upper Egypt negli, okay, Holiday Inn, insieme a Gabriele, che suona anche nei Metro Crowd, insomma, sono sempre... Però ecco, è un locale, è una intorno al fanful, esattamente. A me, ripeto, probabilmente sono le proposte con cui in questo momento mi sento più affine per quello che facciamo con la Ursuoni. Perché sento in tutte le loro cose una influenza della new wave molto forte e anche di un certo post-punk molto molto marcio americano. A me, per dire, vengono sempre in mente i Chrome, non so se... Sì, li conosco, sì. I Chrome tantissimo, quindi tutta quella scena un po' tra il freak, appunto, il post-punk... Psichedelico... E a me, ripeto, piace molto, cioè nel senso... ci sono in questo momento in Italia a livello underground tante cose interessanti, però magari con la maggior parte di esse non, cioè mi piacciono, le vado a sentire eccetera eccetera, ma non sono il mio, ecco, loro sono il mio, per cui sono particolarmente contento di aver avuto l'opportunità di portarli qui. E senti, una domanda un po' conclusiva, questo brano si chiama No News, e invece quali novità hai per l'etichetta UR, cosa ci dobbiamo aspettare, ci puoi dire qualcosa? Allora, una cosa che non ho, forse l'ho menzionato ma di sfuggita, è che a novembre è uscito un disco a cui ho partecipato in coproduzione, che è il nuovo di Tonto, per l'appunto, che si chiama Excerpts numero 4. In vinile, mi dicevi. È uscito in vinile e in cassetta e anche in CDR. È un album che vi invito, insomma, ad andare a ascoltare sul nostro Bandcamp o sul Bandcamp di una delle etichette che hanno partecipato, che ora non le cito per non fare torto a nessuno, perché sono tante, se no qualcuno me la scordo. Però insomma, anche se solo cercate Tonto lo troverete. Album molto interessante. Francesco, insomma, è un bravo artista. Batteria processata e andare, ecco, la risposta per me, io dico sempre che la risposta italiana è Death Grips. Questa è stata, diciamo, l'ultima produzione prima del disco dei Bud Spencer, che presenteremo in anteprima, appunto, il 15, lo troverete anche le copie fisiche del disco dei Bud Spencer. Progetti per il futuro, direi che ormai ufficiale, lo possiamo dire, uscirà uno split fra Caveiras e Arabia Saudagi, che è questo gruppo di Milano in cui, per l'appunto, dicevo, suona anche Cava, che suonava negli Afraid, e che era qualcosa che prima o poi doveva succedere, perché siamo, credo, gli unici gruppi post-punk in Italia che cantano in portoghese, quindi cioè, forza di cose. Se non facevamo uno split noi due, non so... che dovrebbe uscire fine febbraio, inizio marzo. Siete nati apposta. Apposta. E sì, fine febbraio, inizio marzo uscirà questo split in vinile. E poi dopodiché non mi, come dire, non mi sbilancio, perché ci sono un paio di altre idee per il futuro, ma ancora non abbiamo certezza al riguardo, quindi non mi sbilancio in questo senso. Ok, allora siamo arrivati alla fine, ci salutiamo, grazie di essere stato qua, di averci proposto questi interessantissimi brani. E non so, andate tutti a vedere il 15 all'Emerson, questo festival, anche così per capire cosa succede in musiche altre, differenti dal solito, che possono appunto abbracciare il punk come il ritmo più afro-tribale, così come l'ambient e l'elettronica tutto insieme. Noi vi facciamo ascoltare l'ultimo brano, che è sempre The Metro Crowd, che si chiama Not Man. E grazie ancora. Grazie a voi. 8 Hertz, Radio Wombat, ci sentiamo la settimana prossima, stay tuned. Yeah.